Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Come sentivate, in corso il vertice dei ministri degli interni ad Amsterdam con la difficile discussione sul futuro di Schengen, ma nel dibattito si inserisce l'allarme dal direttore di Europol, Rob Wainwright, in una conferenza stampa nell'ambito proprio della riunione di Amsterdam. L'ISIS, ha detto, sta programmando attacchi su larga scala in Europa. For the moment we also know that in a few isolated cases fake documentation is. Sappiamo che hanno una forte capacità di mettere a segno attentati su larga scala, ha detto tra l'altro il direttore di Europol. Tutti i paesi europei lavorano per prevenire attacchi. Ci sono tutte le ragioni per aspettarsi che l'ISIS possa condurre un altro attacco in Europa, si legge in un rapporto pubblicato da Europol, in particolare in Francia, con lo scopo di provocare morti di massa tra la popolazione civile. Un allarme dunque di cui si discuterà ancora nel vertice. Vertice in corso e cruciale per l'Europa. I ministri degli interni, come dicevamo, discutono del futuro di Schengen. Allora andiamo in Olanda. L'ipotesi di un prolungamento del controllo delle frontiere interne dello spazio Schengen per altri 2 anni è un rischio che si tocca drammaticamente con mano qui ad Amsterdam. Le critiche sono tutte rivolte alla Grecia, a cui viene rimproverato il mancato controllo delle frontiere esterne dell'Unione, con il risultato che migliaia di rifugiati continuano a entrare in Europa per raggiungere la Germania e altri paesi limitrofi. In assenza di un calo del numero di profughi, il rischio è che i 28 optano per prolungare il controllo ad alcune frontiere interne, col pericolo di frenare gli scambi commerciali e penalizzare il mercato unico. Molti governi, tra cui quello di Berlino, sono combattuti tra l'urgenza di rassicurare le loro opinioni pubbliche, frenando l'arrivo di rifugiati, anche sigillando i confini, e la necessità di preservare la libera circolazione di persone e merci. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amsterdam. E di migranti si discute anche su un altro fronte, il fronte turco. Dopo i dissapori delle scorse settimane, l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini è ad Ankara. We have to better support Turkey and the incredible work it is doing to host and protect. La Mogherini l'ha sentita e ringraziato la Turchia per il lavoro fatto e la mole di persone accolte. Poi non ha tralasciato però il nodo più spinoso, i 3 miliardi di euro stanziati dall'Unione Europea a favore di Ankara per il mantenimento dei migranti e in particolare dei rifugiati siriani. Saranno disponibili in tempi ragionevoli, ha detto Federica Mogherini, ma da superare ci sono ancora resistenze, in primo luogo quelle italiane. E non l'unico, ma uno dei punti su cui Roma e Bruxelles si sono trovati in disaccordo nei continui bracci di ferro delle ultime settimane, insieme anche alla questione delle cosiddette bad bank, di cui discuteranno domani la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager e il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Di queste tensioni Sergio Nava ha parlato con l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, ex commissario europeo, ma soprattutto predecessore di Sannino e Calenda, quale rappresentante italiano all'Unione Europea. Sentiamo. Secondo me si è andati un po' oltre. Si è forzato un po' la mano su toni polemici, soprattutto attraverso dichiarazioni pubbliche, provocando una reazione che più o meno era prevedibile, se non fosse nei toni e nella forma che hanno assunto le dichiarazioni di Juncker. Ora quello che occorre fare ora è di riportare tutto su un binario di normalità, cioè un binario di interlocuzione che è quella che deve esserci normalmente tra capitale e istituzioni europee, che consenta di trattare le questioni magari con un po' più di sordina e magari con qualche più risultato. È la prima volta che l'Italia, diciamo, alza così la voce nei confronti dell'Europa. È secondo lei una tattica corretta? Lei che ha lavorato per tanti anni all'interno della macchina diplomatica comunitaria, sia da una parte sia dall'altra. Io personalmente ritengo che sia più utile lavorare sotto traccia, non sollevare polveroni polemici, non attaccare frontalmente, non soprattutto utilizzare il mezzo delle dichiarazioni pubbliche. Ci fermiamo qui per ora, vi ricordo questa sera effetto notte Youson, incontro con i parlamentari europei, cosa fanno, di cosa si occupa quando sono i temi sul tappeto al Parlamento europeo. Questa sera appuntamento d'effetto notte, noi invece ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.